per dirti tante tante cose belle, sotto le stelle ti porterò, e in questo incanto magico lunare potrò sognare come io vorrò. Com'è bello stringerti più forte al cuore e parlarti del mio grande amore. Stretti avvinti sempre più, sento allora che solo tu sei il mio sogno, tutta la gioventù. Com'è bello stringersi vicino a me, vedo il paradiso solo in te. Quanta frenesia sento nel mio cuore per te che sei l'amore. Nell'estasi che da questo momento io già mi sento felice il cuore, starai vicino a me se tu lo puoi, come tu vuoi, senza più timore. Com'è bello stringerti più forte al cuore e parlarti del mio grande amore. Stretti avvinti sempre più, sento allora che solo tu sei il mio sogno, tutta la gioventù. Com'è bello stringerti vicino a me, vedo il paradiso solo in te. Quanta frenesia sento nel mio cuore.